se qualcuno non vuole, noi spegniamo sì. E poi... Anche se diciamo tutti i contenuti che abbiamo finora trasmesso, dovrebbero far capire che non siamo noi a registrare, insomma, quindi voglio dire, insomma... Sei il primo, quindi se vuoi puoi intervenire da lì o da qui come preferisci. Guarda, c'è cioè una mia, diciamo, osservazione, ma tipo cose mie personali, cioè sono sorpreso che un video del genere che ho visto prima giri su Al Jazeera e sui nostri media su certe cose non circoli assolutamente niente. Vedere certe cose rimani veramente scioccato. Poi diciamo su quella cosa che avevi detto sulla Smart City, capisco, perché l'avete fatto capire a me sulla mia pelle, quanta disinformazione c'è e quanto poco informati siamo su certe cose. Faccio un esempio pratico. Per esempio, una volta ho visto su vari media che tra poco dovrebbe entrare in vigore il 6G, ho detto, ah, che figata, entrerà in vigore il 6G. Poi dopo invece, sentendo altre persone, mi hanno spiegato che già il 5G fa dei danni alla salute fisica, già il 5G, ho detto, pensa che io ero pure contento che arrivava al 6G. E un'ultima cosa, semplicemente una domanda di curiosità, volevo chiedere se quel video che l'ho fatto vedere prima online è disponibile. No, ok, grazie. Per adesso no, perché è un prodotto che loro hanno doppiato prendendo dei pezzi da Al Jazeera, hanno fatto un lavoro encomiabile e per adesso no, perché non hanno ancora deciso cosa fare. Sbaglio. Ecco. Grazie di tutto. Grazie a te. Se qualcun altro vuole intervenire. Ricordo che dopo ci sarà la cena, non andate via. No, brevissimissimamente, diciamo, tutto questo insieme di informazioni, il video, ti mette un po' nella condizione di ineluttabilità. Questo è e questo... sarà una sorta di ansia, diciamo così, di tutto è molto più grande, è come se poi soggettivamente si possa fare niente, perché tutto incombe, diciamo, quello che abbiamo visto con il documentario, la realtà che c'è in Palestina, di questa, insomma, è chiaramente l'espressione massima di quello che qua stanno costruendo da anni, no? Noi abbiamo poi questo fatto per cui magari le telecamere te le mettono e te le mettono già nelle scuole, quindi il ragazzino cresce con la telecamera nelle scuole e quindi la telecamera non è più un elemento, scusate, ho una voce terribile, bassissima, non è più un elemento, diciamo, di come dire, nemico, un elemento che ti osserva, ma è una cosa comune, per cui poi te la trovi per strada, te la trovi in discoteca, te la trovi nei luoghi, no, dove vivi. Quindi lentamente stanno inserendo tutte queste cose. Ora, io credo così, che in realtà nel nostro piccolo ci sono molte cose, nella nostra quotidianità, prima parlavo con una compagna e diceva giustamente rifiutarsi già nel posto di lavoro, per esempio, di usare uno smartphone, oppure dire dopo le mie ore di lavoro io non sono più rintracciabile con lo smartphone. Ed è un smartphone, e non è una cosa, diciamo, è piccola, ma ci fa tanto bene, perché per esempio sapere come muoversi all'interno delle città piuttosto che usare Google Maps. Un tempo c'erano, diciamo, i compagni e le compagne che si muovevano conoscendo perfettamente i territori dove stavano, che non è una poca cosa. Adesso si è perso il senso dell'orientamento, guardi sempre quella cosa lì, per cui non te ne frega niente di conoscere il territorio. E poi, diciamo, ci sono tante piccole forme di piccole o grandi forme di sabotaggio, e io, come dire, invito tutte e tutti quanti noi che quando poi sentiamo che qualcosa accade ad oggetti, ad antenne, a strutture o altro, magari di non inorridire rispetto alla violenza dell'azione, ma di dire: se queste sono le cose, questa è la violenza del controllo, forse se c'è un sabotaggio che crea danni seri, anche quelli li riparano e non è questo il problema, però danni seri economici, per un attimo si interrompe, quindi si nota anche qual è la vulnerabilità di una società così, perché quando a un certo punto c'è, io lo chiamo male perché non sono veramente una plumera, come si dice, però quando c'è una interruzione di elettricità, tutto si ferma, noi non siamo più niente, e non siamo più niente anche perché non siamo più abituati a vivere senza quelle comodità. Per cui secondo me qualcosina la possiamo fare, anche solo, che ne so, stare appunto, non scandalizzarci per delle cose. Brava. Forse ci arriviamo, dai. No, voglio dire che c'è stato un grande filosofo che ha, diciamo, anticipato quello che sta succedendo, e perché la maggioranza di noi viene colpito dal senso di impotenza, cioè l'impotenza ci fa stare male. E l'impotenza deriva anche da una generale manipolazione dei cervelli, perché se ci fosse veramente, cioè noi assistiamo a manifestazioni grandi, però non c'è, secondo me, una rivolta adeguata a quello che sta succedendo. Non c'è, anche se insomma siamo crescenti. E c'è un filosofo che è Michel Foucault, che vi invito a conoscere, perché mi ha aiutato molto ad entrare in questa ottica delle manipolazioni. Lui, certamente nella sua epoca, è morto nell'84, mi pare, non 1900, quindi nella sua epoca non c'erano marxisti, non c'era tutto quello che abbiamo noi, però lui ha individuato le modalità attraverso cui si manipolano i cervelli, le coscienze. Ha posto il problema, è per me è stato importantissimo. Ha parlato di biopolitica, cioè il potere che interviene nelle nostre vite, che non è solo, cioè le vite che trova già pronte. Poi dopo, se non so pronte, se non so, diciamo, mansuete, poi interviene pure la forza. Però, capito, purtroppo le coscienze sono già pronte, quindi è un grande filo, è molto importante secondo me per capire quello che sta succedendo. Grazie. Io volevo dire una cosa sui media, che prima si diceva non ci sono, a parte questo documentario di Al Jazeera, che comunque poi ho visto è stato fatto anche da ci sono delle parti online, mi sembra c'era anche il Surveillance Resistance Lab che ha partecipato, insomma ci sono gruppi che si occupano proprio di controsorveglianza che hanno partecipato, e allora ho fatto una ricerca poi per vedere se in Italia c'era qualcosa anche su queste smart city, che quasi nessuno sa cosa siano, se nomini solo questa parola, però esistono appunto già, e avevo cercato un po' cosa c'era nel mondo online, e ci sono delle cose effettivamente che sono agghiaccianti, sono quasi tutte educative, proprio fatte con scopo educativo. Per esempio ho trovato molte cose su RaiPlay che erano fatte addirittura chiaramente probabilmente con dei bandi, quindi come dei pacchetti di poco contenuto, ma che si erano fruttati molto evidentemente a un solo docente, e uno per esempio era fatto per i CPA, cioè le scuole secondarie per gli stranieri, solo per loro, era però poi lo trovate su Replay, ed era quindi, voleva essere educativo, era terribile, con tutte parole chiave, che molto semplice il contenuto, e puntava solo su sostenibilità, chiaramente sull'ambiente, le città che salveranno l'ambiente, eccetera eccetera. Poi ho trovato, come tra queste poi ci sono solo quelli pubblicitari, chiaramente, per esempio di Milano, quindi infatti dalle stesse aziende che le realizzano. E poi mi aveva scioccato per esempio una puntata di Report, un po' vecchia, diciamo mi sembra 2017-2019, che una lunga puntata che analizzava solo le città, per esempio Hong Kong, Singapore, sì, città lontane più datate, come e di cui che elogiava a dismisura, proprio addirittura mi ricordo questa parola, diceva non è un'utopia, un sogno di una realtà, che meravigliose città, che per l'ambiente tutto sarà interconnesso, questo era proprio un sogno per l'intervistatore di Report. Non nominava assolutamente in un'ora di documentario mai il problema della sorveglianza, mentre invece si trovano in due secondi altri videogiornalismi, anche qualsiasi, non ti dico di chissà che estremismo, ma che per esempio su Hong Kong, invece sul rapporto della densità delle telecamere rispetto alla densità degli umani, invece sono super critici, comunque si trova tantissima roba di critica sulle altre, le altre città. E poi volevo dire anche invece che al di là poi del fatto, appunto, adesso sarà anche l'urbanismo, sarà progettato direttamente dalla I, ma allo stesso tempo ancora forse come residuo c'è bisogno dell'ideologia architettonica, forse, cioè bisogna anche fare attenzione forse a come sarà venduto invece dagli architetti, perché per esempio mi è capitato di leggere ultimamente delle parole di Boeri, quello di Milano, modello Milano, il bosco verticale eccetera, che non so adesso cosa c'entrerà in questa nuova pianificazione di Roma, ma lui poi non nominava mai la parola Smart City, e a un certo punto diventavano arcipelaghi, 252 arcipelaghi, Roma nome plurale, solo questo. E quindi non useranno la parola Smart City, ma dei belli arcipelaghi, anzi addirittura un omaggio alla pluralità di questa Roma che non si connette, ma con pieno di estasi si descriveva questa Roma che nel 2050 sarà così, arcipelaghi. Bisogna sempre ricordarsi che l'architettura è politica, è assolutamente politica, ed essendo politica è quella che costruisce la società a seconda dei desiderata del potere, quindi bisogna sempre partire da qua. Posso? Come no? No, vengo là. Ciao, volevo iniziare diciamo il ragionamento partendo da un dato di fatto. Iniziativa questa qui che metteva al centro la questione delle smart city. Adesso è questione che io seguo circa da almeno 3-4 anni. Penso che non si possa comunque sia riuscire a comprendere un evento in via di definizione come quello delle smart city se non si capisce, se non si comprende, se non si analizza il processo storico precedente che l'ha permessa. Questo per dire che cosa? Per dire semplicemente che la smart city è eventualmente, se mai si realizzerà, la risultante di un qualcosa che qui in Italia abbiamo vissuto, come in altri paesi, negli anni della cosiddetta emergenza sanitaria. Quando sento parlare di manipolazione, controllo, io mi trovo a disagio oggi, perché queste sono questioni, vicende, sperimentate e archiviate dagli organismi di potere durante l'emergenza sanitaria. La smart city in costruzione è altro, è ingegneria reale, è ingegneria sociale, significa costruire una realtà, è una dimensione completamente differente. Non significa rendere impossibile il dissenso, cosa questa fattibilissima con uno stato di polizia, significa rendere impensabile il dissenso, ed è un altro livello. E questo è il fulcro delle smart city, perché dentro le smart city, che poi possiamo paragonare tranquillamente oggi in via parziale, l'unico esempio può essere la città di Milano, nella quale parzialmente abito, vivo, lavoro, che è l'unica città in Italia in cui l'esperimento delle smart city ha avuto luogo, perché una ZTL grande come quella di Milano non c'è nessun'altra città in Europa. E questo è sintomatico, ha lasciato molto perplessi, perché Milano stessa comunque sia, a parte quel fuoco estemporaneo accaduto a Trieste e forse in parte a Torino, è stata l'unica città che durante i due anni di repressione e ridefinizione del potere medico-sanitario ha portato ogni sabato in piazza 30-40 mila persone che si vedevano dalle 11 di mattina, andavano avanti così, in maniera molto spontanea, pagandone poi le conseguenze, fino alla sera. Questo per dire semplicemente per porre un attimino semplicemente in evidenza un fatto, che in tutto quel contesto ha fatto specie che le aree cosiddette di antagonismo sono state, tranne rarissimi casi, completamente assenti. Ed è stato sintomatico vedere che chi lottava fino a qualche giorno prima contro la discriminazione, in quel periodo invece si è adoperato per la discriminazione e per la persecuzione. E questo qui ovviamente è un punto che è di partenza, che andrebbe affrontato, perché voglio dire, personalmente, il genocidio in Palestina, per me, per quello che riguarda, c'è un genocidio, punto. È una questione prettamente militare, non proponibile e non riproponibile neanche qui nei centri calmierati, perché questi sono centri, quelli occidentali, che hanno dato modo di verificare nei fatti che la popolazione comunque sia ha subito nella sua larga maggioranza un esilio sociale da tutti i punti di vista, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista dello svago, dal punto di vista anche delle cure sanitarie, tanto per citare un passaggio dell'intervista avvenuta lì a un palestinese, giustamente. Questo è un paese, una popolazione che ha accettato tutto. Adesso queste mie considerazioni non vanno nell'ottica ovviamente di tracciare un quadro di condanna, semplicemente dovrebbe essere un invito rivolto ovviamente specialmente alle aree che si considerano antagoniste e tutto il resto, per pensare quel periodo storico. E mi rendo conto che è una cosa difficile, perché per molte aree prendere atto di aver comunque sia in maniera complice assecondato delle politiche di discriminazione, di persecuzione, non diventa più una questione di ego, una questione di carattere personale, ma diventa una questione di identità. E quando parlo di identità, ovviamente si parla di politica, e quindi diventa un passaggio pesante, ma secondo me inderogabile, per il quale io sinceramente mi troverei in difficoltà, altrimenti già mi trovo insomma a partecipare comunque sia i sabati a Milano alle manifestazioni per la Palestina, perché bisognerebbero di ben altro che non quei cortei comunque sia di sfogo o quantomeno di sdegno, perché quello ci sta e quello rimane, mentre la gente, cioè i bambini, vengono martirizzati in maniera ignobile, come del resto accade in qualsiasi altra guerra. Lo sguardo noi adesso lo abbiamo aperto sulla Palestina, ma se lo spostassimo sulla Somalia o se lo spostassimo sul Ruanda, peggio ancora, no? Il paragone sarebbe ancora più tragico. Detto questo, per ritornare alla questione delle smart city, potrei semplicemente dire che cos'è una smart city alla luce del ragionamento il ragionamento che ora ho provato a farvi, cioè ragionamento, alla luce del ragionamento che significa sostanzialmente rendere impensabile il dissenso, non solamente impossibile che una missione qualsiasi, significa semplicemente che la smart reality significa la fine dell'empatia e l'affermazione della conformità, quello che è stato costruito inizialmente durante 2 anni di pandemia. E questo, guardate, non è una storia finita, perché comunque sia è un modello assolutamente da sposare le affermazioni fatte prima dagli altri compagni, ma che noi anche qui comunque sia a Roma avevamo in parte elaborato sul fatto che sta finendo un'esperienza storica che è quella conformata sullo Stato di diritto e si sta affermando un'esperienza storica che è quella modulata sulle concessioni che avete premiati, ossia i diritti devono diventare eventualmente privilegi e quando sono privilegi sono per tutto anche revocabili a discrezione di chi detiene il comando e il potere. Quindi è un passaggio questo successivo anche alla questione giusta che condividiamo della messa a profitto, perché i 2 anni dell'emergenza Covid sono stati la più grande riconfigurazione finanziaria del potere in epoca occidentale dal 45 ad oggi, come mai si è vista. Detto questo, apposta, non sono questioni di carattere emergenziale qui terminate, difficilmente, tranne le solite avanguardie che si espongono in prima persona, troveremo vicende di carattere repressivo come possiamo vedere in Palestina, ma come nel resto sono accadute in Italia, che tengo a ricordare che a cavallo tra l'80 e l'82 ha avuto circa, se non sbaglio, oltre 10.000 incarcerati per una vicenda di carattere politico declassificata a semplice partecipazione a banda armata, che era l'usualità del tempo. Ma tutto questo comunque sia non lo vedremo probabilmente accadere qui, visto quello la tragedia che è accaduta 2 anni, l'assenza che c'è stata durante 2 anni, però probabilmente questo non toglie che una valutazione, una presa d'atto di quell'esperienza sia oggi necessaria. Mettere la polvere sotto al tappeto, nasconderla, non ha mai portato benefici, non l'ha portata in nessuna situazione, non l'ha portata durante all'indomani del 45, non li ha portati nel 1981-82, dopo un ventennio comunque sia di lotte partite dal basso, che hanno avuto le loro espressioni più variegate, dalla semplice protesta fino all'opposizione armata. Non l'hanno avuto a quel caso, non l'avranno in questa situazione qui. Non vuole essere un discorso questo qui di carattere come ha detto anche prima qualcuno, no? Per rendersi la vita senza via d'uscita, significa semplicemente che chiunque in giro per il mondo e per il quale i compagni cosiddetti decidono di volersi battere riceverà sicuramente un maggiore contributo nel momento in cui i compagni, specificamente qui in Italia come in Francia e in altri paesi, combatteranno contro le questioni interne. E la questione quella del Covid è pesantissima, è rimasta irrisolta e non viene neanche mai affrontata. E non finirà qui, perché ecco, basta semplicemente una questione anche di carattere molto folcloristico sull'emergenza di carattere climatico, sul sole, no? Sul calore. Io faccio parte di una categoria edilizia che ovviamente a cui è stato vietato oggi, no? Per disposizioni regionali, ordinamenti regionali, di lavorare dalle 12.30 fino alle 16. Disposizione che ovviamente io anche sul posto di lavoro paradossalmente rifiuto. Poi si ferma il cantiere e io me ne posso anche andare, ma questo non toglie il fatto che io la debba apertamente rifiutare, spiegando tranquillamente che qualsiasi disposizione che viene calata dall'alto non è certo a favore a favore della mia salute e della salute di chi viene sfruttato. Ma stiamo scherzando? Ma ci siamo passati già con la vicenda del Covid, cioè di governanti, di imprenditori, padroni, messi tutti insieme, che dopo aver nei 30 anni precedenti dismesso completamente la sanità pubblica, l'assistenza pubblica, hanno portato in campo delle politiche di carattere discriminatorio, repressive, persecutorie, in nome di che cosa? In nome del bene comune della salute pubblica. Ma abbiate pazienza, io parlo a titolo personale, la rifiutai al tempo giustificandola con una semplice parola. Eventualmente fallito sì, tra virgolette, ma coglione no. Assolutamente. E non è un discorso questo qui, non è un discorso questo qui che vuole semplicemente far scadere l'analisi in termini di contrapposizione a forza da pausa di lavoro. È semplicemente una valutazione che vorrebbe tremendamente che ci sia da parte di chi si arroga la definizione di essere compagno, ci sia un attimino la presa di coscienza di un qualcosa che è accaduto e che aspetta di essere risolto, perché altrimenti sinceramente non penso che si possa andare da nessuna parte rispetto alle pesantissime politiche in atto e in preparazione per il futuro. E vi cito semplicemente la questione dell'emergenza climatica e del calore, questione molto ridicola, ma vi ricordo che qui in Italia non esiste a tutt'oggi una carbon tax. Non esiste una carbon tax. Quando in maniera progressiva verrà immessa nella vita di tutti quanti, poi ne riparleremo. Grazie a tutti e a tutti. Eccoci qua un'altra volta e con qualcuno un'altra volta, con qualcuno mai, sono contenta, è la prima volta che lo vedo, quindi è bene così. E... Figuriamoci se questo accade anche a noi, dai. Abbiamo visto questi video terrificanti, no? Da un certo punto di vista. E ci trasportano in una realtà che non possiamo comprendere appieno, in fondo, no? Noi non abbiamo mai vissuto così, no? E non ci siamo mai trovati a questo livello di costrizione, no? Nei nostri spostamenti, in quella che è la nostra vita quotidiana, nel condizionamento di ogni cosa che vogliamo fare, nel ricatto permanente per avere un accesso dei permessi magari al lavoro, o magari per avere delle cure, o magari per andare a trovare qualche familiare in ospedale. Noi non ci siamo assolutamente mai trovati così, forse non ci siamo mai trovati così. Certo, non ci siamo mai trovati col fucile spianato, non ci siamo mai trovati ad essere giustiziati in mezzo alla strada perché qualche dispositivo ci ha seguito, monitorato, ascoltato, individuato, magari come potenziale nemico, no, magari col fucile spianato, no, oggi. E allora, diciamo, voglio arrivare a questo, per carità, voglio dire, i nemici poi in fondo li conosciamo, sono sempre gli stessi, sono sempre loro, sono sempre esseri umani innanzitutto, sono sempre tra gli esseri umani, voglio dire, non è che abbiamo un computer che si decide da solo, non abbiamo i criteri che vengono autodefiniti, non abbiamo il profitto che emana all'interno del computer, no, sono sempre esseri umani che fanno questa cosa e io non mi sento affatto uguale a loro, per cui ribadisco che gli esseri umani non sono affatto tutti uguali. Ci sono interessi, questi interessi sono economici, sono di potere, spesso vanno insieme, Il profitto è sempre lì, è sempre quello, ok? Non siamo affatto tutti quanti, non ci ritroviamo nella stessa situazione di chi prende queste decisioni, di chi su questo ci estrae, da questo ci estrae valore economico e da chi su questo ci fa frutto. No, mi sento profondamente differente. Ora tutte queste tecnologie che ci fanno sentire, almeno a me, no, con la costrizione alla gola, vale a dire oddio da dove parto, cosa faccio, come possiamo fare, e ovviamente il primo interesse è sempre quello militare, conosciamo tutto, passare la guerra, non vedo che ci prendiamo in giro, è normale che vediamo una situazione di oppressione ben definita ormai pluridecennale, che chiaramente utilizza sicuramente in modo più efficiente possibile questi strumenti, queste tecnologie, si lasciano anche diciamo in qualche modo si lasciano sperimentare, si lascia no? Anche questa tecnologia è anche sperimentata sulla pelle degli umani, sulla pelle di chiunque, sulla pelle degli sfruttati principalmente, sulla pelle degli oppressi, sulla pelle dei colonizzati, perché chiaramente è quella parte della popolazione che sostanzialmente non deve godere, no, del profitto, non deve godere del potere. Ora, per carità, il discorso è molto vago, ma in fondo non lo è. Ora noi non ci siamo mica trovati col fucile spianato, ma io ricordo che stavo per essere sospesa perché mi sono rifiutata di vaccinarmi durante la gestione pandemica, l'obbligo vaccinale, e quello era obbligato, sul lavoro. Ricordo di aver visto all'interno di questo anche nello spazio di movimento, il mio come quello di tanti altri, perché non accettavo un certo tipo di costrizione, non potevo andare al cinema, non potevo andare al bar, non potevo andare a mangiare fuori, eppure perché oddio, grande problematica di salute mondiale, sostanzialmente perché non accettavo di adeguarmi al diktat del momento, al diktat del potere, secondo questa logica di emergenza permanente che ci rimane ancora addosso e che rimarrà per molto tempo, e diventa è diventato il Covid, è diventata la guerra, è diventata l'emergenza climatica, è diventata l'emergenza quotidiana. Siamo pieni di emergenza, assistiamo senza fare sostanzialmente, senza riuscire a intervenire, a un genocidio dettato da una politica di guerra, e non ci rendiamo conto di quanto noi siamo parte di tutto questo. Ne siamo parte perché innanzitutto lo accettiamo di vederlo a distanza, accettiamo anche di vivere e di vedere il nostro spazio che si va chiaramente configurando come lo stesso spazio, lo stesso territorio, solo che in questo momento non abbiamo bisogno di venire più spianati, non abbiamo bisogno di essere serviti per ogni cosa che facciamo, perché diciamo onestamente la nostra buona volontà non ci fa fare un po' tutto da soli, capiamoci. Allora ci siamo fatti ricattare sul lavoro, ma dai, sì, alla fine che vuoi, ci siamo fatti condizionare, non ci siamo più andati, ma sì, dai, in nome della salute, ok, ma che vuoi che sia qualche telecamera in più in nome della sicurezza, vediamo un po', dai, voglio dire, è giusto che le cose, dai, le case, a quelli che si comportano bene, è chiaro, è entrata dentro di noi questa logica ormai, da quando siamo piccoli è entrata questa logica del guarda che se non c'è permesso di soggiorno è colpa di chi ruba, e guarda che se non puoi avere accesso a queste cose, e perché dai, in fondo tu non è che ti comporti tanto bene, magari protesti, ma che sei nato, oppure ragioni, oppure semplicemente l'ho costruita la tua vita in modo autonomo, sono un po' indipendenti. Allora non ce lo possiamo permettere questo, noi non ce lo possiamo permettere perché noi abbiamo dei problemi, c'è una grandissima crisi, perché questa crisi si va definendo nei modi più cruenti che in cui si può manifestare, e di avere problemi con te proprio non è il caso, no? Non è il caso, tanto tranquillo, perché io lo so quando tu ti comporti male, io lo so perché c'è un sacco di gente che me lo dice, e me lo dicono, me lo dice il vicino di casa, me lo dice che ne so, al lavoro, me lo dice, lo va dicendo magari qualche collega, lo va dicendo il vicino di casa, lo va dicendo anche quello con cui magari, no, uno pensava di condividere qualcosa, voglio dire, io durante la gestione pandemica, no, abbiamo avuto dei serissimi problemi anche con quelli che in teoria dovrebbero essere dei compagni, che questa analisi magari forse era il caso che la facesse in modo un po' più approfondito. Certo, non ci stupiamo, almeno io non più da tempo, perché sono gli stessi compagni che, diciamo, in una logica collaborazionista hanno già fatto nel tempo tanto e tanto, tanto danno. Allora, mi domando, noi come possiamo fare per chiunque voglia effettivamente uscire da questo, no? Oppure non uscire, anche cercare di cambiare materialmente le cose, no? Voglia effettivamente darsi da fare. Io credo che questa roba la dobbiamo capire, studiare, capire come funziona anche tecnicamente, capire come interrompere questo meccanismo di premio-punizione, come andare contro quella che è l'essenza, perché loro gli serve l'infrastruttura, gli serve la nostra collaborazione e gli serve la nostra, diciamo, totale dipendenza. Ora siamo tutti grandi e vaccinati, io penso che possiamo riprenderci l'indipendenza come era, possiamo riprenderci anche la nostra capacità di scelta e possiamo anche prendere le distanze da tutto questo, possiamo prendere le distanze dal fatto che poi alla fine, magari che vuoi che sia... Me lo prendo questi punti, tanto che devo fare, devo solo fare adesso, devo solo schedarmi, dai, vado a Venezia, glielo dico dove vado, dai, facciamo così, se mi serve dimostrare che sono brava, lo faccio perché in fondo io devo vivere, mangiare, lavorare e devo comunque in qualche modo rimanere a galla, lo faccio, dai. Che vuoi che sia. Allora questo è il nostro meccanismo, come la percezione che non possiamo fare a meno di tutto questo, perché l'infrastruttura che ci stanno costruendo intorno è talmente invasiva che pensiamo di non poter fare più niente senza di questo. È così che gli regaliamo tutto. Quindi un po' più di distanza, un po' più di separatezza, ben venga qualche autocoscienza critica, no? Rispetto a quella che è stata magari l'analisi di quel tempo, e soprattutto smettiamo di collaborare con loro. Ciao Andrea, la compagna che voleva intervenire, volevo dire anche io due cose, magari se cerchiamo di non fare troppa confusione con i piatti, visto che avete avuto l'iniziativa di cominciare a nutrirvi. Avete avuto l'iniziativa da avere fame. No, due parole proprio, sia per la stanchezza, sia perché quando vedi, no, certe cose come quelle che abbiamo visto stasera. Cioè, non è abbassiamo un po' il volume per favore. Non è che c'è sta tanto voglia di parlare, le poche cose che andrebbero dette non si possono dire. Quindi andando molto brevemente, sì, quello che abbiamo visto stasera, quel livello di tracciamento delle vite delle persone, trova poche analogie nell'esperienza di noi come persone appartenenti alla specie umana, come persone bianche. Ovviamente, no? Come persone mediamente a occhi e croce abbastanza conformi rispetto a certi parametri di identificazione anatomica del genere, insomma, no, l'analogia è forte col mondo cosiddetto animale, no? Rispetto al quale riserviamo tutta una serie di pratiche di tracciamento, di controllo e di destinazione alla sacrificabilità che vediamo qua. Noi chiaramente come persone bianche, come dire, ci sono dovuti un attimo venire a controllare in tasca, no? Laddove la tasca è lo smartphone, sono gli accessi che fai dentro la città attraverso la tua targa, perché non eravamo abituate. Cioè noi a livello di riconoscibilità immediata non ce l'avevamo questo problema, eravamo bianche, no? Era tutto a posto. Altre persone questo problema ce l'avevano già, se tecniche sono state sperimentate dagli italiani in Libia nel 19, all'inizio del 20 secolo, sono state sperimentate nello stesso periodo da parte degli inglesi in India, no? Cioè là si è inventato tutto, la carta d'identità non esisteva, la carta d'identità non ce la dovevi avere prima, la carta d'identità ce la dovevi avere se tu rappresentavi un problema, se appartenevi alle tribù maledette, quelle che si ribellavano al colonialismo. Là inizia tutto sto panoptico, no? Sul sistema di controllo dei territori, eccetera, e con l'allevamento. Quindi, cioè, voglio dire, non è niente di nuovo, so che queste cose le sappiamo perfettamente, ma mi sembrava una cosa che andasse citata. Ci sta Cristina, volevo dire due cose anche io, ma intervieni prima tu, così ti... così. No, buonasera, volevo solo fare una specifica perché penso che il ragionamento effettivamente anche rispetto all'ultimo intervento, agli ultimi interventi anche della compagna, vada un attimo ampliato, cioè vada guardato da un certo punto di vista, che è quello generale, cioè partendo da quello che abbiamo visto, partendo da quello che sappiamo, partendo da quello che diceva anche Elisabetta, si dovrebbe cominciare a porsi una domanda, cioè come l'innovazione tecnologica rispetto a 20-30 anni fa incide sulle nostre vite. Dal punto di vista del preventivo è soprattutto una questione molto importante, repressivo. E prima si parlava del fatto di quanto noi delle volte anche inconsciamente magari non ci rendiamo conto di coadiuvare, di dare una mano, di collaborare, di contribuire in qualche modo. Dovremmo renderci conto di come magari rispetto alle modalità in cui lo Stato in qualche modo ci controllava, sia in maniera preventiva, sia in maniera repressiva, al fine insomma di illuderci, di arrestarci, di impedire una serie di attività, faccia oggi. Ovviamente sfruttando quello che è lo strumento di tutti i giorni, perché oggettivamente è uno strumento di tutti i giorni, il controllo attraverso la tecnologia e attraverso i social network, soprattutto attraverso il tracciamento dei dati. Un dato che non è, insomma, molto spesso viene visto quando magari ne parliamo al di fuori, come voi ci avete le paranoie. Non è una paranoia, è reale, è concreto, è certificato. C'è un tracciamento di dati, c'è un controllo dei dati, c'è un controllo sui social soprattutto e su una serie di strumenti, perché oggettivamente il nemico può andare avanti a livello tecnologico, va avanti e ovviamente è una serie di passi avanti a noi. Quello che abbiamo visto io ritengo che sia importante non solo per la questione palestinese, che di per sé è il cardine in questo momento, perché oggettivamente, lo dicevamo prima, è un genocidio, è un massacro, è apartheid, non ci sono altri termini per definirlo, non ci sono sinonimi, è questo e basta, la definizione tecnica è quella, appunto, non ci sono altri. Quindi è importante da quel punto di vista, ma è importante se vogliamo vederla, purtroppo viviamo in un mondo fortemente individualizzato, se vogliamo vederla anche dal nostro punto di vista come sperimentazione. Perché in realtà quello che avviene a Hebron, sotto certi aspetti, avviene sicuramente, non c'è dubbio, ve lo dico oggi, segnatevi il giorno, l'ora e il mese, avverrà qui, ma neanche tra 10-15 anni nel mondo futuristico, a stretto giro, a breve termine. Si parlava dei varchi della ZTL, ma io ricordo quando prima del Giubileo si parlava delle telecamere a riconoscimento facciale nel centro di Roma. Ci sono una serie di tecnologie di cui si dota oggettivamente lo Stato che sono molto più avanzate rispetto a quello che abbiamo noi. Al che viene, sorge spontanea la domanda, quindi siamo finiti? No, non siamo finiti, non è così. Però magari possiamo fare in modo e dotarci di una serie di strumenti che non starò qui in questo momento a dirvi ovviamente, dotarci di una serie di strumenti per evitare di darvi una mano, perché purtroppo, per forza di cose, avendo il nemico in mano la tecnologia e l'innovazione tecnologica, perdiamo in svantaggio, ma è un modello reale. Quindi nel momento in cui tra 2-3 anni ci vedremo la nostra faccia stampata su un atto qualsiasi in cui si dice tu sei passato a quell'ora in quel posto e 5 minuti dopo è successo questo, non è reale, è realissimo, avviene, succede. Si parlava prima delle mappe di Google Maps, si parlava di una serie di strumenti. Lo strumento tecnologico può essere nostro amico, ma deve essere saper utilizzato, perché nel 90% dei casi viene ovviamente sovvenzionato, creato, fornito dal nostro nemico, che non lo fa per beneficenza, perché ci vuole bene e perché che bello, lo fa uno per profitto, due perché il profitto avviene anche attraverso il controllo da parte dello Stato, vendo i dati allo Stato. Quindi su questo io ci tengo a fare molta molta attenzione, perché uno, come gestiamo i dati, due, come gestiamo i social, tre, come gestiamo app di qualsiasi tipo, attenzione, perché quello strumento è in mano loro, e quello è uno. Il secondo sono tutti gli strumenti che sono intorno a noi, siamo pieni di occhi intorno a noi, dalla farmacia al barco d'ingresso della ZTL, sono in aumento. La questione dell'allucinante, veramente dovrebbe essere abbattuto, del Parco Rosso, che è vergognoso già perché solo una donna non si deve sentire recintata e sicura nel suo piccolo ghetto sicuro, deve sentirsi sicura dappertutto, in ogni strada, in ogni luogo, in ogni piazza. Io non devo avere il mio piccolo ghetto di sicurezza, devo sentirmi sicura dappertutto. Non esiste che io devo essere confinata in una riserva indiana, primo. Secondo, anche utilizzare, per far accettare, perché è un metodo di accettazione, utilizzare questa tematica, quindi il pinkwashing, per far accettare uno strumento di controllo, in modo tale che la donna quando esce dice sai che c'è, a me la telecamera lassù mi sta proprio bene, sai che c'è, a me il sistema di tracciamento con dove sono, dove vado, mi sta proprio bene. Sì, ma oggi viene, si pensa, utilizzato per questo, domani per una serie di altre cose. Quindi facciamo molta molta attenzione, perché intorno a noi gli occhi ce ne sono tanti, servono con finalità, vi ripeto, preventive, ma anche e soprattutto repressive. Facciamo attenzione al motto del giorno, che è non regaliamogli nulla, perché purtroppo in questo momento lo strumento che abbiamo accanto può essere nostro amico, ma un tempo, una volta si faceva l'hack meeting in cui c'erano una serie di compagni che davano degli strumenti, forse bisognerebbe tornare a capire, tanto più adesso che lo strumento tecnologico è fondamentale e ne siamo circondati. Se buttiamo il telefono non è finita lì, ne siamo circondati dappertutto, utilizzi la carta, hai la telecamera in giro, prendi il treno, ne siamo circondati ovunque. Bisognerebbe cominciare a ragionare di come questi sistemi dovrebbero essere in qualche modo aggirati, abbattuti non si può, perché, però aggirati quantomeno. Però facciamo attenzione, perché ripeto, lo strumento tecnologico è per il 90% nostro nemico, dobbiamo saperlo utilizzare sempre sempre molto bene. Non regaliamogli nulla e mi raccomando, attenzione, perché quello che abbiamo visto, allucinante, aberrante, che avvenga in Palestina, ma la sperimentazione che avviene lì non è così lontana dalla realtà occidentale, perché i sistemi sono già in qualche forma, ovviamente di gran lunga minore, utilizzati qui con l'intelligenza, ovviamente l'intelligenza israeliana di gran lunga più ampia, ma non è così lontana dalla realtà. Ricordiamoci appunto, poi quello che non sia stata più applicata perché ce l'ha i soldi. Però ricordiamoci che prima del Giubileo si parlava di riconoscimento facciale all'ingresso del centro di Roma per evitare qualsiasi forma, non di attentato, ma qualsiasi forma di problema, una contestazione, qualsiasi cosa. Quindi attenzione, ve lo dico, attenzione a tutti i modi, e troviamo gli strumenti utili per evitarlo. Volevo essere breve, non lo sono stata, mi dispiace. Dico brevemente proprio due cose, non so se siamo in chiusura, spero di no, però vedo che tutti mangiano. Ci tenevo a dire due cose, magari mi ripeterò anche, ci tenevo a dire delle cose anche a parole mie. Diciamo, rispetto a quello che ha detto Cristina in chiusura, posso dire che comunque le 15.000 telecamere non hanno riconoscimento facciale, perché il garante della privacy ci ha messo una pezza, ma comunque sono collegate a una centrale unica, le 15.000 che si aggiungono a quelle già, alle migliaia già presenti sul territorio romano, e mi riferisco soltanto a quelle, diciamo, pubbliche.